get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute a questa nuova trasmissione. Diciamo subito che, anche se forse soltanto le ascoltatrici più assidue potrebbero essersene accorte, noi del coordinamento Lesbiche Romane abbiamo commesso un errore nel numerare le nostre trasmissioni. Così, anche se la settimana scorsa abbiamo detto che la trasmissione era arrivata alla 88esima puntata, oggi diciamo che siamo invece alla 90esima, e non perché non ci piaccia il numero 89. È solo che quando siamo andate a catalogare le nostre trasmissioni per il nostro archivio ci siamo rese conto di aver sbagliato. Il primo errore l'abbiamo commesso subito dopo le vacanze estive, al rientro dalle ferie, attribuendo alla prima trasmissione una numerazione errata. Sì, sono consapevole del fatto che per molte di voi forse tutto questo non incide minimamente sull'equilibrio della vostra vita. Sappiate invece che per noi è molto importante, perché fa parte della nostra storia. La nostra storia di visibilità del pensiero lesbico fa parte del nostro voler fare controinformazione, della nostra voglia di far sentire il nostro punto di vista. Insomma, l'essere qui fa parte della nostra resistenza nel continuare a essere presenti, sempre e comunque. Allora, 90esima trasmissione, dicevamo. Dunque, oggi siamo qui in studio io, che sono Caterina, e con me c'è Lucilla. Sarà una trasmissione monotematica che parlerà delle donne nelle istituzioni e del rapporto con le stesse, con le tasse, scusate, che lo Stato richiede. Faremo un'analisi storico-politica di questo aspetto, aiutate da qualcuna che ci ha dato lo spunto. Daremo, come di consueto, una serie di appuntamenti e notizie dal e per il mondo lesbico. Il tutto intervallato da ottima musica al femminile. Rimanete dunque con noi e intanto ascoltiamoci il primo brano. Si tratta di una canzone di Janis Jan dal titolo When the Silence Falls, e sapendo di non avere purtroppo, ahimè, una pronuncia oxfordiana, vi traduco il titolo: Quando il silenzio cade. Niente di più appropriato per la trasmissione di oggi. Ascoltiamola insieme. I dream the sky. can't even hear God call in the silence calls. Allora, buonasera a tutte e ben arrivati al nostro ascolto, ben arrivati al nuovo appuntamento. Questa sera, come vi è già stato anticipato, vi parliamo di un argomento interessante: uguaglianza, che passione. Come vi abbiamo anticipato, oggi parleremo dell'iniquità del sistema tributario. A grandi linee, questa affermazione è facilmente e largamente condivisibile. Peraltro, sappiamo che sicuramente non possono sfuggire alle imposte le persone che lavorano con rapporto di dipendenza, che invece alcune categorie di professionisti evadono spesso e volentieri le tasse, che i grandi industriali si sono inventati lo smembramento delle aziende con il trasferimento in paesi del terzo mondo di alcuni comparti, quelli produttivi e a basso costo di manodopera, proprio per fregare lo Stato. Siamo persuase che con il sistema di tassazione indiretta strapaghiamo sempre noi, e poi il costo della benzina non scende mai ed è uno dei più alti in Europa. Tutto vero. Ma a cosa servono le tasse? Sono un tributo pagato allo Stato o agli enti pubblici per usufruire di particolari servizi. E quindi, al di là di una facile critica al sistema dei servizi erogati, scuola, asili, ospedali, consultori, sistema stradale, pulizia della città, polizia, polizia, Parlamento, frontiere, e chi più ne ha più ne metta, ci interessa capire quali siano i costi sociali e in quale percentuale le donne usufruiscano dei servizi stessi. E come ci è venuta questa idea? Leggendo uno splendido romanzo di Elena Giannini Belotti, dal seducente titolo Apri le porte all'alba. Vi invitiamo a leggerlo e a riflettere con noi sulla veridicità di alcune considerazioni sui diversi costi sociali tra uomini e donne e sulla profonda ingiustizia di questo sistema, che impone un'uguaglianza tra cittadine e cittadini solo per quello che concerne il pagare. La legge tributaria è uguale per tutti. Non godiamo dello stesso privilegio rispetto alle opportunità di impiego e di progressione di carriera, tanto per citare qualcuno a caso. Ma tornando al romanzo della Belotti, è la storia di Doris e del suo rapporto con l'affettività verso il padre, gli uomini, il proprio gruppo di amiche, la politica, la cultura, il disagio, la quotidianità. L'incontro e lo scontro con un mondo difficile da vivere. Ed è a Irene, amica, vicina di casa, nonché femminista impegnata, che tocca il ruolo della ricercatrice, stravagante e puntigliosa. Sentite come. E adesso vi leggiamo alcuni pezzi dal libro. Si parla di Irene, è partita dalla constatazione delle differenze strabilianti tra criminalità maschile e femminile. Su 100 detenuti, solo poco più di 4 sono femmine. Ripete spesso uno slogan con gli occhi brillanti di soddisfazione: non tutti gli uomini sono criminali, ma quasi tutti i criminali sono uomini. Ogni detenuto costa allo Stato circa 350.000 lire al giorno, uno sproposito neanche fosse alloggiato in una camera singola di un albergo a 4 stelle. Le detenute, a rigor di logica, dovrebbero costare ogni giorno il 4% di quanto costano gli uomini. Invece no, costano ancora meno, perché sono più tranquille e perciò servono meno sorveglianti. Si adattano a tenere in ordine il reparto e quindi si paga meno personale. Mangiano persino meno degli uomini e dunque c'è un risparmio sul vitto. Inoltre, per la maggior parte sono condannate per reati lievi per i quali la reclusione è breve e così il 4% del costo totale diminuisce ancora. Ne conclude che le donne dovrebbero pagare le tasse solo nella esatta proporzione in cui costano allo Stato e non un soldo di più. I calcoli non sono difficili da fare, basterebbe averne voglia. E se non ne ha voglia il governo, proclama Bellicosa, i ministeri e la pletora degli enti pubblici da cui siamo afflitti, bene, i calcoli li faremo noi e glieli sbatteremo sul muso. Perché il maggior costo sociale degli uomini è evidente in molti casi. E poi argomenta: i danni materiali inflitti a beni pubblici da quei ragazzotti privi di cervello ma ben forniti di muscoli, stazioni ferroviarie, treni, automobili, autobus devastati e incendiati, pavimentazioni cancellate e recinti divelti, gradinate degli stati demoliti, le sale di pronto soccorso degli ospedali fatte a pezzi. Come se non bastasse, gli uomini da 18 ai 25 anni sono quelli che causano il maggior numero di incidenti stradali per il loro modo sprezzante e incosciente di guidare, mentre le donne di ogni età non ne provocano quasi affatto. Sono unicamente loro i responsabili delle stragi del sabato sera. Pensa soltanto cosa costa alla comunità un morto nel fiore degli anni, un ferito da curare che non lavorerà per mesi o per anni, un paralitico da riabilitare o che non potrà mai più provvedere a se stesso. Per non parlare degli shock, delle sofferenze, dei lutti, dei processi che traumatizzano intere famiglie. Cosa aspettiamo a chiedere una riduzione delle tasse, visto che costiamo tanto meno allo Stato? Si domanda sempre più infiammata. Oppure a pretendere che gli uomini paghino una salatissima tassa addizionale, proprio perché costano tanto di più? Sostiene che persino nei costi dell'immigrazione degli extracomunitari c'è un enorme squilibrio tra maschi e femmine, perché tra i primi alcuni sono molto agitati e altri delinquono, mentre le donne non danno alcun problema. E ancora dal libro. È Doris che parla. Ho incontrato Irene dal salumiere. Sprezzava esultanza e sventolava un mazzo di fotocopie dei dati ottenuti dalla polizia sui costi delle partite di calcio per la collettività. Mi ha spiegato che le forze dell'ordine vengono spostate su e giù per la penisola sia per le partite importanti che provocano migrazioni bibliche dei tifosi, sia per gli infimi campionati locali, perché ormai i disordini si verificano ovunque e hanno un carattere sempre più violento. Nella scorsa stagione calcistica, la mobilitazione della polizia i danni alle persone e alle cose provocate dai tifosi, il colossale servizio di nettezza urbana dopo ogni partita, eccetera, eccetera, sono costati la bellezza di 19 miliardi. Tu lo sapevi che nei fine settimana gli ospedali lavorano come matti a causa delle zuffe tra le tifoserie avversarie? No, non lo sapevo e non ci avevo mai pensato. Ha concluso il suo concitato racconto. Le donne che frequentano gli stadi sono un'esigua minoranza, anche se in crescita, e per di più una minoranza assolutamente inoffensiva. Perché mai dobbiamo accollarci in parti uguali le spese di una simile gigantesca e costosissima organizzazione, tenuta in piedi a uso quasi esclusivo degli uomini? Dove sta l'equità in tutto ciò? Mentre parlava, pensavo che troppo spesso nella storia le ingiustizie consumate contro certi gruppi umani erano apparse per lunghi secoli del tutto naturali, finché qualcuno non s'era alzato in piedi e aveva gridato forte contro il sopruso. Troppo spesso è stato scambiato per naturale ciò che era soltanto abituale, persino alle vittime stesse dell'ingiustizia, la cui capacità di giudizio era offuscata dall'abitudine quanto quella degli oppressori. Come se avesse udito i miei pensieri, Irene ha aggiunto: quella del maggior costo sociale degli uomini è una realtà che sta sotto gli occhi di tutti, ma nessuno sembra vederla, nemmeno le donne. Il brano che andiamo adesso ad ascoltare è il brano del duo lesbico Castelberry-Dupré dal titolo Hot Corn in the Fire. Yeah. Ed eccomi ancora con voi. Dunque, dopo aver ascoltato Lucilla, non posso far altro che dichiarare la mia piena approvazione con quanto denunciava e rivendicava Irene, la protagonista del libro della Belotti. Anzi, mi viene da fare altre considerazioni, prendendo spunto, tra l'altro, da un altro libro che ho trovato interessantissimo. Si tratta di Passato prossimo di Eva Cantarella, dal quale ho ricavato la storia di Ortensia. Ortensia era una donna romana vissuta intorno al 42 a.C. che molte similitudini ha con Irene. In ogni modo, nel libro Passato prossimo, l'autrice prende in esame la condizione delle donne dalle origini di Roma fino all'età arcaica, cercando di dare una risposta plausibile sulle cause che hanno determinato il passaggio per le donne da una situazione di completo assoggettamento agli uomini fino ad arrivare alla conquista di una rudimentale forma di indipendenza. Si analizza quanto questa sostanziale modificazione dello status delle donne abbia inciso sulla messa in discussione di alcuni schemi tradizionali. Una nota costante di tutto il periodo analizzato è comunque quella che sicuramente alle donne non è stato porto nessun aiuto sostanziale dagli uomini, anzi, come contraltare ad ogni piccola conquista c'è stato, da parte degli uomini, un sostanziale affossamento delle donne. Gli uomini che detenevano il potere hanno pensato prima, approvato all'unanimità e quindi applicato, leggi e regolamentazioni fatte ad hoc per garantire la propria egemonia. E questo si è verificato sempre, anche quando la società non era ancora del tutto strutturata. Ad esempio, quando gli uomini hanno abusato della loro forza fisica andando a rapire le donne sabine, il famoso ratto delle Sabine, per inciso, tanto famoso che oggi il dipinto è posto in bella mostra nella sede del Parlamento italiano. Va bene, ratto delle Sabine, dicevo, avvenuto in occasione dei giochi indetti da Romolo in onore di Nettuno, semplicemente perché avevano bisogno di popolare la nuova città di Roma. Oppure, nei primi secoli di Roma, la possibilità di parlare era prerogativa esclusiva maschile. Alle donne non era consentito, come del resto oggi in Afghanistan. E ancora, i romani costringevano le donne ad assumere comportamenti legati a virtù integerrime attraverso una continua forma di propaganda, una sorta di propaganda che legava modelli di donne appunto integerrime al pubblico rispetto. Soltanto se si fossero comportate in quel modo, modo che chiaramente loro, cioè gli uomini, pensavano che le donne dovessero tenere, avrebbero potuto godere di alcuni privilegi. Chiaramente erano privilegi fittizi, infatti all'epoca i romani avevano bisogno di ascoltatrici e non di interlocutrici. Le donne, insomma, dovevano stare al loro posto. Anche quando venivano scambiate con soci d'affari o pari grado nella scala gerarchica della società, a discrezione unica del padre di lei, il quale poteva, interrompendo il matrimonio, passarla temporaneamente in sposa ad un altro uomo. anche ad un uomo vecchio, purché ricco, giusto il tempo necessario per garantire, a lui chiaramente, la possibilità di avere un erede. I Romani si inventarono i figli in comune, i quali avrebbero garantito un consolidamento del legame fondato sulla politica o sul potere economico fra due uomini. Di ciò che provava o voleva la donna non interessava niente a nessuno. Veniva semplicemente scambiata e usata come mezzo per la procreazione. La giustificazione era quella di non far perdere alla donna nemmeno un anno del suo periodo fecondo. Cosa ha significato questo per le donne è di facile intuizione. Insomma, per le donne romane durante i primi secoli della città non fu una vita facile, furono costrette al rispetto di regole giuridiche che le avrebbero sottomesse per tutta la vita al potere e al controllo di un uomo, prima del padre, poi del marito e in assenza di questi di un tutore. E per chi trasgrediva c'era la morte, senza tante storie. Eva Cantarella scrive: nei primi secoli della città, la libertà concessa alle donne romane all'interno della famiglia era ben poca cosa, così poca da rendere difficile capire i cambiamenti che, nel giro di alcuni secoli, apriranno loro una serie di nuovi e inaspettati orizzonti. Ma a capire come e perché questi orizzonti si aprirono, contribuisce l'analisi delle più antiche regole del sistema ereditario. Infatti, anche se la norma delle 12 tavole stabiliva che se colui che non ha eredi suoi muore senza aver fatto testamento, il patrimonio va dal parente più stretto in linea maschile. Il capofamiglia poteva disporre per testamento dei suoi beni solo se non aveva eredi suoi, cioè coloro che si trovavano sotto la sua diretta potestà, quindi anche le donne. Vediamo così che, per assurdo, le donne risultavano essere assoggettate al potere maschile per tutta la vita, ma attraverso le regole del sistema ereditario le donne acquistarono la possibilità di ereditare beni materiali. Ma purtroppo si sa, non è tutto oro quello che luccica, infatti le donne venivano ancora una volta usate come detentrici provvisorie del patrimonio familiare. Infatti erano ammesse come categoria alla successione ereditaria, ma non potevano disporre dei beni ereditati. E per garantirsi questa impossibilità, le donne rimaste orfane o vedove venivano affidate, diciamo così, per tutta la vita al controllo di un tutore, unico in grado di gestire il patrimonio. Ma cosa contribuì in modo sostanziale al cambiamento della condizione femminile? Uno dei motivi determinanti è stato quello delle continue guerre che insanguinarono tutti gli ultimi secoli della Repubblica di Roma, in particolare la Seconda Guerra Punica, che decimò irrimediabilmente la popolazione maschile. Cosa significa questo? Significa che in mancanza di uomini rimanevano ad ereditare solo giovani orfani e donne. Quindi le donne, e che agli uomini piacesse o non piacesse, si trovarono nelle mani una grande ricchezza. Ed Eva Cantarella scrive ancora: a Roma, insomma, non solo c'era un certo numero di donne ricche, ma vi era un grandissimo numero di donne che, non importa a quanto ammontasse, erano titolari di un loro patrimonio. L'indipendenza economica portò con sé l'autonomia psicologica e sociale. Inutile dire che, secondo gli uomini, le donne non avrebbero saputo far buon uso di tutta quella libertà. Certo è che loro avrebbero gradito che le donne non avessero stravolto le antiche abitudini. Ed invece avvenne proprio questo. Le donne, non più legate da regole di sudditanza economica, cominciarono ad avere e ad esporre le loro opinioni personali su tutto. Intuirono e capirono come salvaguardare i loro interessi, anche discutendone con altre donne, e soprattutto entrarono nel mondo della cultura. Iniziarono cioè a studiare. Per tutelare e difendere i loro diritti, le donne romane arrivarono anche a scendere in piazza, ed è in questo contesto che si colloca Ortensia. Ortensia era una donna avvocato, anche molto rispettata. Ma perché ci interessa così tanto Ortensia? Perché nel 42 a.C., non facendo tesoro della lezione avuta dalle precedenti esperienze, i romani decisero di affrontare una nuova guerra. Per questo i triumviri decisero di imporre a 1400 donne, tra le più ricche della città, di partecipare alle spese militari. Le donne, ritenendo questa tassazione ingiusta, cominciarono a ribellarsi cercando qualcuno che le potesse difendere, ma chiaramente, anche impegnandosi molto, non trovarono nessuno disposto a prendere le loro parti. E allora accadde un fatto inusitato, scrive ancora la Cantarella. Di fronte al rifiuto maschile di difendere il privilegio di non pagare le tasse, che a torto o a ragione consideravano un loro diritto, le donne decisero di difendersi da sole. Ed ecco entrare in scena Ortensia, la quale parlò pubblicamente davanti ai triumviri e pronunciò un'arringa che convinse completamente tutta l'assemblea. Ma cosa disse Ortensia per convincerli? Il testo della sua orazione è riportato da Appiano. Ve lo leggo così come ha scritto. «Perché mai, chiese Ortensia, le donne dovrebbero pagare le tasse, visto che sono escluse dalla magistratura, dai pubblici uffici, dal comando e dalla Repubblica? Meditate, donne, meditate». Ed ora, per concludere questa nostra puntata, un altro brano di un'altra cantante lesbica, sto parlando di Melissa Etheridge, il brano è Your Little Secret, un piccolo segreto. Thank you. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno del martedì femminista autogestito sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Vi potete mettere in contatto con noi attraverso il nostro telefono fax e segreteria telefonica allo 06 68 64 201, tutti i mercoledì dalle ore 21 in poi. Se non dovessimo rispondere, comunque voi lasciate lo stesso un messaggio, perché magari siamo occupate a fare altro, ma cerchiamo sempre di rispondere. Oppure potete utilizzare le vie telematiche scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica clrbp@hotmail.com. E ancora attraverso il classico servizio postale, scrivendo a Coordinamento Lesbiche Romane presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B, Roma. E ancora restiamo in attesa di vostre comunicazioni e, se avete voglia, di qualsiasi possibile collaborazione che voi vogliate avere con noi. Siamo una radio, siamo all'interno di una radio libera, siamo un gruppo di donne lesbiche che liberamente esprime il proprio pensiero. Ci potete scrivere, noi siamo disponibili a rispondere anche a richieste di informazioni su altri gruppi, per esempio, altri gruppi di cui noi conosciamo le attività, come i gruppi separatisti in Italia, e ce ne sono ancora, e potete darci qualsiasi tipo di informazione anche su altri tipi di attività che svolgete e che volete far conoscere, oppure per dire la vostra la vostra opinione su avvenimenti, film, libri, o dirci e darci le date di iniziative di cui siete a conoscenza. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di essere presenti facendo sentire le vostre idee, i vostri pensieri e le vostre emozioni in un mondo che vorrebbe cancellarci, sommergerci sotto un mare di silenzio. Gridiamo il nostro esistere. Fai sentire la tua voce, collabora con il coordinamento Lesbiche Romane, alla trasmissione È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Arrivederci alla prossima settimana, al prossimo martedì, da Caterina Lucilla e da tutto il coordinamento Lesbiche Romane. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah. E ormai penso che lo sappiate, anche se avete ascoltato la sigla, state ancora con noi fino alle 22. Quella che state ascoltando è Kate Curtis con il brano The Wolf. Speeches to the wind, count the votes, then laugh in. What you gonna do when the silence falls? See that cloud in the eastern sky. See that cloud in the eastern sky. Brighter than the brightest pearl, big enough to eat this world. What you gonna do when the well winds dry? Thank you. Allora, una notizia che non abbiamo dato durante i 45 minuti di trasmissione, che vediamo adesso e che è abbastanza interessante, dato il clima che c'è in giro e nel mondo. E il 30 novembre, l'1 e il 2 dicembre, il Forum delle Donne di Rifondazione invitano tutte le donne, in parte al Buon Pastore verrà tenuta questa iniziativa, per un incontro sulla pace e sulle iniziative per la pace, visto che la guerra purtroppo sta andando avanti malgrado gli appelli e gli sforzi di donne e anche di uomini che invece sono più impegnati nell'ambito della pace. Ma sì, io scommetto che l'avete riconosciuta, è la grande Tina Turner con il brano I Can't Stand the Rain. How sweet it used to be.